GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati, ancora buona domenica dalla Razzani e Francesca Vigori in primo piano nella cronaca. Gli incendi boschivi in regione, quello all'Isert e quello di Moggio Udinese. Cominciamo da quest'ultimo perché ha ripreso vigore l'incendio che da 2 settimane a momenti alterni sta interessando una zona impervia del Monte Cima d'Ors sopra Moggio Udinese. Il rogo era stato innescato il 18 agosto da un fulmine durante un temporale. Da questa mattina sulla zona sono stati inviati e stanno operando 2 Canadair e 2 elicotteri. La zona non è raggiungibile né con mezzi terrestri né a piedi e l'incendio che preoccupa di più la Protezione Civile e il Corpo Forestale Regionale perché è il più vasto. Il fronte attraversa quasi tutto il Monte Cima d'Ors e si potrebbe propagare ai monti vicini ed è essenziale che venga contenuto. E nonostante il presidio di numerose squadre, questa notte, a causa dell'arrivo del vento, l'incendio tra Monfalcone e l'Isert si è riattivato. Rimane interdetta la circolazione la statale 14 che conduce da Monfalcone a Duino. A causa della ripresa del fuoco e del vento a Monfalcone e nei comuni limitrofi è presente il fumo proveniente dall'incendio dell'Isert. Continua a comparire qua e là all'improvviso nuovi focolai nell'area dell'incendio scoppiato ieri a Monfalcone, nella zona dell'Isert. Senza alcuna avvisaglia si alzano colonne di fumo oppure del fuoco sale in superficie dopo aver covato per ore sottoterra. Per questo operano senza sosta Corpo Forestale Regionale, volontari della Protezione Civile e Vigili del Fuoco per monitorare e bonificare le aree andate in fumo e per appunto spegnere i nuovi focolai. Uno relativamente grande ha preso vigore nella notte nel perimetro a nord dell'incendio di ieri in una zona adiacente a un punto già bruciato nel 2022. L'intervento dell'elicottero di prima mattina ha subito contenuto la ripresa. Situazione di viabilità. È tornata operativa da ieri sera la linea ferroviaria. Rimane aperta l'autostrada mentre resta chiusa la statale 14 all'ingresso di Monfalcone. Il traffico è deviato verso la marina di Lepanto per chi va verso Trieste della città e sul Vallone per chi invece proviene dalla costiera o esce a Monfalcone Est dall'autostrada. Dopo l'intervento dell'elicottero in mattinata hanno operato solo squadre a terra anche perché ci sono altri 2 incendi attivi in regione da qualche giorno. Uno sotto controllo a Chiusaforte, un altro piuttosto vigoroso sul Monte Cima d'Ors a Moggio Udinese, dove è intervenuto in mattinata anche un Canadair. In entrambi i casi non sono minacciate case o infrastrutture. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Grave aggressione ad un autista di un bus di Arriva Italia questa mattina nell'autostazione di Udine. L'uomo sarebbe stato aggredito con pugni al volto da 2 ragazzi minorenni che avevano viaggiato sul mezzo partito da Grado alle 6.30 e arrivato nel capoluogo friulano alle 7.30. I giovani sono stati fermati dalla polizia immediatamente giunta sul posto assieme ai militari dell'esercito che pattugliano l'area della stazione. Agli agenti i 2 hanno raccontato di essere stati redarguiti dall'autista durante la corsa perché avevano acceso una sigaretta elettronica a bordo. Un testimone oculare racconta di aver visto l'autista disteso a terra con il volto tumefatto e sanguinante. I 2 ragazzi sono stati affidati ai genitori e segnalati alla procura per i minori. La polizia sta acquisendo le immagini della videosorveglianza dell'autostazione e delle videocamere a bordo del bus. Sul posto anche un'autoambulanza per medicare il ferito. La protesta di diverse decine di allevatori di uccelli ha bloccato per la prima volta in 751 anni i concorsi degli uccelli canori alla Sagra degli Osei di Sacile, previsti per questa mattina all'alba. Troppi controlli e sequestri nelle fiere, dicono gli addetti. Sentiamo Antonio Chies, presidente della giuria del Tordo Nazionale di Sacile. Scorsa domenica è successo che ad un'altra fiera, quella di Annone Veneto, ci sono stati dei controlli per quanto riguarda i uccelli canori in concorso. Sono stati rilevati notevoli verbali con migliaia di euro di sanzioni, per cui gli espositori non si sentono tutelati e oggi hanno deciso di manifestare proprio per avere una garanzia. In una fiera significa non creare solo problemi ai concorrenti se si fanno i controlli, si crea un problema all'intera fiera, a tutta l'organizzazione, a tutto questo volontariato, a tutte le persone che si danno da fare e quindi oggi i concorrenti di tutta Italia che vengono a Sacile hanno voluto manifestare il loro disagio. Per poter proteggersi devono avere un avvocato, devono andare in tribunale e questo costa migliaia di euro. Sacile, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora uno sguardo al meteo, cielo sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. Trieste 29 gradi, temperatura del mare 28 gradi e 5 decimi. Gorizia 33 gradi, Udine 32, Pordenone 31. A Tolmezzo 28 gradi, a Forni di Sopra e Tarvisio 24, a Piancavallo 22, a Sappada 15 gradi. Sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 19 gradi. A Grado 29 gradi, a Lignano 28 gradi. La temperatura del mare in queste località è di 27 gradi e 5 decimi. Le previsioni dell'ARPA: nel pomeriggio variabilità sulla zona montana, dove saranno possibili rovesci o temporali sparsi, più probabili su Alpi e Prealpi Carniche. Tuttavia non si esclude anche la fascia orientale della regione al confine con la Slovenia. Venti di brezza, ancora caldo, con temperatura di oltre 5 gradi sopra la norma del periodo. Passiamo allo sport. Con il calcio di Serie A, dopo la vittoria contro la Lazio, l'Udinese cerca oggi di replicare e ottenere così due vittorie consecutive che mancano dal marzo del 2023 e che garantirebbero ai bianconeri uno slancio positivo in questo avvio di campionato iniziato con un pareggio 1-1 con il Bologna. La sfida oggi è con il neopromosso Como. L'Udinese punta sull'asse Lucca Tovene, squadra in campo alle 20:45. In Serie C, nella prima trasferta di stagione per la Triestina ieri sera a Legnago contro la Clodiense, gli alabardati sono stati battuti dai padroni di casa per 1-0. La Triestina sbatte contro il muro dell'Union Clodiense in una prima amara trasferta stagionale. Un passo indietro per l'alabarda che si materializza nei primi minuti di gioco. L'aggressione dei padroni di casa porta frutti già al quinto, quando Biondi, lanciato in profondità, si invola davanti a Ross, lo supera in dribbling e fa 1-0. L'attesa reazione alabardata viene favorita all'ottavo dall'espulsione di Nelli, che entra dritto sulla caviglia di Correia, inevitabile il cartellino rosso. Ma bisogna aspettare la mezz'ora per vedere il primo tentativo serio della Triestina con un destro dai 20 metri di Correia, contenuto in presa da Gasparini. Avvio di secondo tempo e clamorosa occasione per la Triestina. Il neo entrato Fertainen si libera bene, ma a tu per tu con il portiere ospite spedisce la sfera alle stelle con una puntata all'altezza del dischetto. Va più vicino al gol l'Union Clodiense al 52esimo. La girata in area di prima intenzione di Sinani si stampa sul palo alla destra di Ross. La risposta alla bardata arriva tre minuti dopo, innescata dal cross di D'Urso dalla destra. Correia di testa toglie un comodo appoggio a rete ad Attis, piazzato appena dietro. Gasparini controlla in presa. La lunga superiorità numerica non produce frutti per gli alabardati. Il muro veneto regge fino alla fine. La Triestina torna a casa senza punti. Andrea Cobre, TGR Friuli Venezia Giulia. Basket: nella prima amichevole stagionale esordio positivo per Pallacanestro Trieste, una spedizione incoraggiante quella di ieri sera a Castelfranco Veneto contro Vanoli Cremona, contro un'avversaria di categoria con anche un paio di uscite in più nelle gambe che permette di guardare con ottimismo al prosieguo della preparazione. Il match si è chiuso 73-57. E nella prima uscita ufficiale per l'APU Old Wild West Udine al palazzetto dello Sport Codroipo, in occasione della 21esima edizione della Basketball Summer League, i bianconeri si sono imposti con il risultato di 75-62 contro il Cedevita Zagabria. Avevano tutte le carte in regola per ottenerlo, ma non hanno mai vinto il premio Nobel. A 15 scienziate dall'antichità ai giorni nostri, matematiche, fisiche, chimiche, biologhe, che hanno sfidato i pregiudizi della loro epoca per accedere a un sapere scientifico riservato esclusivamente agli uomini, Cinzia Leone ha dedicato la mostra Donne da Nobel. Il premio Nobel è stato infatti istituito nel 1901 e su un totale di 975 premiati le donne a oggi sono solo 66, il 4%. Eppure, spiega la fumettista, scrittrice, illustratrice e giornalista, alle donne che racconto, da Rosalind Franklin a Hedy Lamarr, dalle Apollo Sister a Eva Mameli, dai pazzi a Lise Meitner, quel premio sarebbe spettato di diritto. L'inaugurazione alle 18:30 al Palazzo del Fumetto di Pordenone. Era stato liberato una prima volta nel 1993 dopo l'avvio del piano di reintroduzione della specie nella riserva naturale di Cornino, ma nella vita insolitamente lunga, 36 anni, di un grifone nato in Spagna nel 1988 e che da 31 anni vola sui cieli delle Alpi orientali, uno dei veterani della colonia fondata alla riserva naturale regionale del Lago di Cornino, grazie al progetto Grifone, c'è tempo per una nuova reimmissione in natura che avverrà oggi nell'ambito della manifestazione Vivi e Liberi di Volare. Dopo essere stato soccorso dal personale della cooperativa Paves, quando si trovava in precarie condizioni fisiche a causa della scarsa nutrizione. A consentirne l'identificazione, l'anello metallico ufficiale dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. L'occasione appunto è Vivi e Liberi di Volare, giornata divulgativa per la sensibilizzazione sugli avvoltoi. Il ritrovo alle 14. È tutto da Lara Zani e Francesca Vigori, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello, Andrea Fontanotte e Laura Sarasini in redazione. Grazie per la cortese attenzione. Ancora buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.